La prima cosa che abbiamo chiesto è che questi 400.000 euro siano destinati ad iniziative rivolte alle scuole, ai ragazzi, per i progetti che intervengano sui temi della cultura, dell'interculturalità, delle iniziative antirazziste, cioè che questi soldi che vengono raccolti per espressioni di razzismo siano usati per combattere il razzismo. E questo avviene attraverso la cultura, perché solo attraverso questo passaggio il problema può essere sconfitto. Poi ovviamente noi continuiamo la nostra attività di Vive il Calcio, quindi stiamo lavorando sulla costruzione del premio Harper Weiss, che comunemente è stato deciso di istituire per riconoscere a chi si comporta in maniera, attraverso diciamo così, proprie azioni, manifesta un contrasto nei confronti del razzismo. Quindi continuiamo a muoverci su questa dimensione, diciamo così, dell'attenzione al razzismo presente nella società ma anche negli stadi.